Riraccontiamo un attimo che cos'è MyBank, questa intuizione che tu hai avuto, che tu hai voluto e che tu hai creato. Allora, MyBank è un progetto che è nato 5 anni fa. Noi lavoriamo con i ragazzi giovani dagli 11 ai 25 anni su progetti di formazione finanziaria e imprenditoriale. Lavoriamo su 3 livelli, quelli della capacità, la conoscenza e l'autostima. E l'idea di base è proprio quella di concedere dei prestiti, dei microprestiti a gruppi di ragazzi che si aggregano e che hanno un'idea da portare avanti, un'idea da concretizzare. Esatto, quindi noi facciamo diversi programmi, tra cui questo del microcredito, dove apriamo delle banche all'interno delle scuole e dei gruppi di giovani che vengono gestiti da giovani stessi, all'interno delle quali si può avere accesso a dei piccoli prestiti a 0 tasso di interesse che i giovani usano per mettere su la loro prima idea imprenditoriale. Quindi progetti dove il prestito li aiuta a creare dei prodotti che poi loro venderanno nelle loro comunità o a mettere su degli eventi che organizzeranno per i loro coetanei. Lili, ma questo vuol dire che ha solo una finalità educativa o c'è proprio una finalità operativa, nel senso che nascono delle imprese grazie ai vostri prestiti, grazie al vostro aiuto? L'insieme delle due cose, per cui l'aspetto formativo e di istruzione è importantissimo, perché dà loro il primo spunto e crea in loro anche una curiosità e un'attitudine imprenditoriale. E poi l'aspetto del prestito, che invece gli dà la possibilità di creare dei progetti concreti, rende le loro idee delle realtà, e questo vuol dire che sono giovani preparati al lavoro, che sono giovani che hanno un'attitudine verso il futuro di creare opportunità, di creare possibilità. Ci puoi dare idea con qualche numero delle persone che coinvolgete, di quanti ragazzi avete appunto aiutato con MyBank? I nostri programmi di formazione hanno aiutato 42.000 giovani negli ultimi 5 anni. Il nostro programma di microcredito ha lavorato con intorno agli 8.000 giovani. Ci hai detto che la scuola è uno degli interventi che fate, ci sono altri ambiti dove operate? Sì, e per noi è molto importante veramente lavorare in tutti gli ambiti, per cui lavoriamo dalle scuole, quelle private più privilegiate, a anche le prigioni giovanili, ai gruppi rifugiati, ai gruppi che veramente risentono di uno svantaggio economico e di una mancanza di accesso a opportunità lavorative.